Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. 26 luglio 2007, riesumato il corpo di Pico della Mirandola, ma il suo mistero resta. Si chiamano casi freddi perché sono accaduti lontani nel tempo, ma su cui qualcuno torna delle volte a indagare, non sempre per risolverlo però. Il numero 1494 non si riferisce al cold case, ma all'anno in cui il delitto è stato commesso. La vittima è un nobile, bello e immensamente ricco, l'uomo più ricco d'Italia. Per questo è in relazione con tutte le famiglie più potenti del suo tempo, come quella del Papa Innocenzo VIII e quella di Lorenzo de' Medici, il magnifico signore di Firenze. La vittima è il conte Giovanni Pico della Mirandola e principe di Concordia. È il 17 novembre 1494 e sta morendo nel suo letto, ma il suo corpo già odora di morte. Tutti i medici intorno a lui osservano la sua lingua nera e le unghie altrettanto nere, segno inequivocabile dell'avvelenamento da arsenico, un veleno molto in voga. Si guardano tra loro, ognuno di essi sospetta che tra gli altri si nasconda il braccio del mandante. La Chiesa di Roma, che lo ha condannato per le sue tesi eretiche. Piero, il figlio del Magnifico, geloso dell'affetto del padre. Non quest'ultimo, però, che è già morto, assassinato. Tra i sospettati c'è anche la fazione dei fanatici seguaci di Girolamo Savonarola, suo amico e nemico al tempo stesso, e il poeta sodomita Benivieni, folle di un amore non corrisposto. E ancora il filosofo Marsilio Ficino, geloso della fama di colui che era stato suo allievo. E anche qualche parente non è esente da sospetto, e il mandante potrebbe celarsi tra qualche marito tradito. Il conte non disdegnava le belle donne. Giovanni Pico della Mirandola e di Concordia muore, ucciso, senza dubbio alcuno, per ingerimento di arsenico, lo stesso identico veleno che ha spinto alla tomba anzitempo il Papa Innocenzo VIII, solo 3 mesi dopo Lorenzo de' Medici. 40 anni dopo, nel 1534, il cadavere di Pico della Mirandola viene inumato nel suo sepolcro attuale, nella chiesa di San Marco, in Firenze. E sul marmo è scolpita una frase sibillina: «Hic jacet Mirandula, cetera norunt et tagus et ganges forza net antipotes». Ma che cosa vuol dire? Letteralmente è chiaro, qui giace Mirandola, il resto lo sanno è il tago, è il gange e forse anche gli antipodi. Ma nessuno sa ancora oggi che cosa nasconda la frase. Ed ecco che, a 513 anni di distanza, il caso, molto cold, viene riesumato. È il 26 luglio del 2007. Uno staff di studiosi tira fuori le sue ossa con il parere contrario dei buoni padri domenicani che le custodiscono. C'è una presenza inquietante con loro, i carabinieri del RIS, il reparto investigativo speciale. Perché? Ma ecco il colpo di scena. Lo staff dichiara di voler esaminare i resti del conte per scoprire in che modo è stato assassinato. Perché una simile dichiarazione quando tutti gli studiosi del mondo sanno che Pico della Mirandola è stato, al di là di ogni ragionevole dubbio, ucciso con l'arsenico? Non è pensabile che un così notorito gruppo di studiosi non sia al corrente di un fatto così noto. Così cresce il legittimo sospetto che tutti quegli uomini cercassero dell'altro. Ma che cosa? Hanno detto di avere trovato nel sepolcro una scatola vuota. Ma è vero? Ed era veramente vuota? O si aspettavano forse di trovarvi dentro qualcosa? Forse proprio la risposta al segreto dell'iscrizione sul sepolcro. Qualcosa che il più grande tra i geni del Rinascimento aveva scoperto. In quegli anni, l'umanista e storico Lorenzo Valla aveva intuito e dimostrato la falsità della donazione di Costantino, un documento su cui si basava il potere terreno della Chiesa e il suo diritto a ungere l'imperatore del Sacro Romano Impero. Una scoperta tenuta nascosti per secoli, perché avrebbe minato alla base il potere stesso della Chiesa. E se dietro a quella frase oscura, scolpita sulla tomba di Mirandola, si nascondesse un segreto ancora più grande? Vi sono solo indizi, ma che pesano come macigni, soprattutto quando si riferiscono a un mistero che avrebbe dovuto ormai essere morto e sepolto, ma che qualcuno, in tutta evidenza, teme ancora possa essere scoperto. Ora sappiamo anche dai RIS ciò che sapevamo prima, che Pico della Mirandola è stato ucciso dall'arsenico. e che il mandante è ancora sconosciuto. La tomba è stata richiusa e i resti di Mirandola ricomposti, ma il suo segreto è ancora vivo e presente tra noi. Carlo Martigli, in libreria con L'ultimo custode, Castelvecchi Editore, 400 pagine, 18,50 euro.